9 in punto. La storia di una società che precipita e che mentre sta precipitando si ripete per farci coraggio. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori. A darci il tono di oggi, spero non troppo pessimistico, sono questi due passaggi presi dal film L'Odio di Mathieu Kassovitz, ambientato nelle banlieue francesi, nelle periferie francesi, un film del 1995 che ha vinto, se non erro, il premio della regia a Cannes, uno splendido film girato in bianco e nero, nel quale appunto si racconta anche delle violenze con la polizia, delle violenze da parte della polizia nei confronti degli immigrati appunto in queste banlieue francesi. Si racconta sostanzialmente di integrazione difficile. Dopo questi 8 giorni di scontri alla periferia di Stoccolma, e non solo alla periferia di Stoccolma, anche in altre città della Svezia, quella Svezia che siamo abituati a vedere nei servizi televisivi, insomma, in particolare spessissimo, se ne parlava con qualche collega, a Ballarò, insomma noi, in particolare noi che abbiamo parecchi figli, cioè parecchi insomma, io ne ho 3, stiamo là con la bava alla bocca a vedere questo luogo meraviglioso dove insomma il welfare funziona perfettamente, con i bambini non ci sono problemi, asili, nido ovunque, lavoro dappertutto, un senso di comunità incredibile, eppure... Le ultime 8 nottate sono trascorse in questo modo. Quindi c'è evidentemente da chiedersi qualcosa che riguarda tutti noi, riguarda l'Europa, riguarda naturalmente anche l'Italia. Fatti che fanno seguito, se volete, alle rivolte appunto delle banlieue parigine nel 2005 e a quelle anche di Londra nel 2011. È evidentemente un problema europeo, qualcosa su cui ragionare dal punto di vista dei modelli. Francesco Speroni, europarlamentare della Lega Nord, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte. E saluto anche Khalid Chaouki, responsabile Nuovi Italiani per il Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Speroni, io inizierei da lei perché immagino che voi giudichiate... A partire dall'esempio svedese, nel quale si sono accolti moltissimi migranti, soprattutto tramite asilo politico, insomma, soprattutto rifugiati, sono accolti moltissimi migranti negli ultimi anni. Se si guardano i grafici di quello che è successo in Europa da questo punto di vista e di quello che è successo in Svezia, sono impressionanti perché il contrasto sono due linee completamente divergenti, quella della Svezia verso l'alto e quella dell'Europa verso il basso. Insomma, immagino lo giudichiate un modello sbagliato a questo punto. Ma intanto il richiedente asilo ha pienamente diritto a essere accolto in qualunque paese, anche non europeo. Esistono varie convenzioni internazionali, a cominciare da quella di Dublino. Quindi non penso che la Svezia sia più o meno di manica larga rispetto agli altri. Poi è chiaro che, tra l'altro, queste convenzioni prevedono che l'asilo venga concesso dal paese dove il richiedente asilo, l'asilante, arriva per primo, quindi visto che la Svezia è abbastanza lontana dai luoghi da cui provengono i rifugiati, pensiamo al Nord Africa, Medio Oriente, eccetera, non penso che sia questo tipo di immigrazione che ha causato questi disordini, poi bisogna verificare, magari è anche invece immigrazione per dire di altro tipo, quella che viene definita, non so, immigrazione economica, ecco, quindi tra l'asilante e l'immigrato economico può esserci una differenza, in ogni caso andrebbe verificato. Di sicuro ci sono dei problemi, ci sono stati anche in Francia comunque gli immigrati percentualmente sono molto di più che in Svezia e lo stesso nel Regno Unito, quindi non penso che sia la quantità degli immigrati, ma è chiaro che certo tipo di immigrazione porta dei problemi, soprattutto quando le differenze tra la popolazione che è già lì e quella che arriva sono molto ampie. È chiaro che noi abbiamo avuto anche, si parla sempre, gli italiani sono un popolo che una volta emigrava, adesso purtroppo per la crisi economica si torna ad emigrare, però non mi risulta che, non so, a Little Italy, a New York ci siano mai stati delle sommosse, degli incendi, delle devastazioni come invece si sono state nelle periferie parigine o nelle città svedesi o nel Regno Unito. Ecco, dipende dal tipo di immigrazione. Vorrei ricordare quanto diceva nel 2000 il cardinale Biffi, che appunto cardinale di Bologna: più c'è differenza tra l'immigrato e chi lo accoglie e più è difficile l'integrazione, e una difficile immigrazione può portare anche a questi episodi, ovviamente condannabili ed evitabili magari con una certa selezione all'ingresso. Ma quindi c'è un modello che non funziona secondo lei, a prescindere, ripeto, a prescindere dall'esempio svedese, no? Perché ripeto, abbiamo l'esempio francese, l'esempio di Londra, cioè c'è un modello che non funziona secondo lei a livello europeo, che funziona male? Ma è il modello stesso dell'immigrazione, tutto sommato incontrollata, tutto sommato quella poi con i condoni, le sanatorie, cioè ad esempio negli Stati Uniti è più difficile che succedano queste cose o nel Canada, perché lì l'immigrazione è più controllata, nel senso adesso Obama parla di una sanatoria, però fino ad oggi non ne ho viste. Qui invece parlo a questo punto anche dell'Italia, non so esattamente il caso svedese, però non mi sembra che ci siano molto controlli, anzi tante volte si dice ma l'immigrazione va favorita perché devono occupare posti di lavoro che i nostri concittadini non vogliono e così via, anche se ricordo che in Italia ci sono più immigrati che disoccupati, quindi anche quello può creare delle tensioni. Di sicuro l'immigrazione finora è stata gestita abbastanza male, proprio perché non si è fatta una selezione all'origine e magari si è ecceduto nel concedere i permessi di soggiorno. Giusto per fare qualche numero, visto che li chiedeva Speroni, l'anno scorso le richieste di asilo accolte in Svezia sono state 44.000 solamente l'anno scorso, quindi comunque è un numero oggettivamente rilevante. Probabilmente in tutto questo gioca, ecco, ma bisogna vedere sì, quanti sono invece gli immigrati effettivi. Sì, dico economici, in tutto questo, non quelli richiedenti asilo. Sì, in tutto questo gioca evidentemente in qualche misura anche la crisi economica, che è chiaro che in Svezia è meno forte, però abbiamo un 20% di disoccupazione giovanile, che è nulla rispetto al nostro 38%, e però la metà di questi disoccupati sono appunto immigrati sostanzialmente, insomma. Le percentuali di disoccupazione giovanile tra gli immigrati extraeuropei arrivano intorno al 50% tra i giovani immigrati extraeuropei. Allora, ciao Chi, come la legge lei? Come lo legge lei quello che è successo in Svezia? Ma è sicuramente un campanello d'allarme molto forte. Come dicevate voi all'inizio, noi siamo stati abituati a vedere la Svezia, come altri paesi, prima l'Olanda addirittura, come modelli sicuramente, diciamo, paradisi in terra rispetto ai temi dell'integrazione. Io quello che voglio dire è che non è un problema di cultura o di non controllo dell'immigrazione, perché in Svezia invece un sistema di controllo c'è, come c'è ovviamente un sistema molto forte di tutela dei diritti umani, e questo a loro fa onore, non è una cosa da criticare. Il fatto però è che io vedo è che l'assistenzialismo non funziona più, cioè quel tipo di welfare e in qualche modo ha puntato molto sull'assistenza, sugli aiuti, e questo ovviamente se può in qualche modo aiutare la prima generazione ad essere accolta o a volte anche ad approfittarne di questo tipo di aiuti, come sta avvenendo anche in Germania, non solo rispetto agli immigrati ma anche rispetto ai tedeschi, che in qualche modo insomma, c'è una tendenza poi a, in qualche modo ad approfittarne in alcuni casi di questi aiuti e quindi anche a lavorare di meno. E il fatto vero, secondo me, di quello che è avvenuto nelle periferie, a Hasbi in particolare, è riguardo ai giovani, cioè non stiamo parlando di immigrati di prima generazione che manifestano, distruggono, eccetera, stiamo parlando di ragazzi che sono o nati o cresciuti in Svezia e che ovviamente non trovano lavoro, hanno un livello culturale molto basso, vivono in un ghetto, quindi il problema non è non sono i numeri e nemmeno sono le etnie di appartenenza, questo è un discorso che io almeno non posso condividere, il problema vero è che c'è stata una politica di assistenza e soprattutto non hanno fatto una politica vera di convivenza, di costruzione di una cittadinanza comune, quindi abbiamo assistito a interi quartieri che piano piano crescevano nelle periferie e che poi portano i ragazzi a avere una frustrazione enorme, ed è quello anche il problema italiano che noi ripetiamo sempre: non bisogna sottovalutare il percorso di cittadinanza dei nuovi cittadini, dei figli di immigrati che si ribellano in quel modo lì perché non si sentono ospiti, non perché sono dei selvaggi, semplicemente perché manifestano in modo, si sentono pienamente legittimati a manifestare nel loro paese, che è in questo caso la Svezia. Quindi non è un discorso, secondo me, culturale o di integrazione, è un discorso proprio di integrazione sociale ed economica, e questo è un problema serio che insomma, deve farci riflettere sicuramente. E deve far riflettere molto anche l'Italia, perché noi oggi rischiamo di arrivare sempre troppo tardi ai problemi. Sono anni che già alcuni di questi aspetti li vediamo anche qui da noi, i quartieri periferici di Genova, come a Milano, come qui a Roma, insomma, scaricano nelle periferie delle città tutti i problemi, e di conseguenza poi il rischio che i giovani nati in Italia o in Svezia, figli di immigrati, si sentono in qualche modo trattati da, diciamo, da cittadini. Secondo lei, ciò che c'è il rischio di episodi simili a quelli che abbiamo visto in Svezia o appunto nelle banlieue francesi o ancora a Londra? Ricordiamo che, se vogliamo riportare qualcosa di questo genere avvenuto in Italia, anche se era partita in maniera diversa naturalmente, possiamo ricordare la vicenda di via Padova a Milano, insomma gli scontri di via Padova a Milano, che insomma probabilmente i milanesi hanno ben, e non solo, tutti gli italiani hanno ben presente, parliamo di una vicenda di circa 3 anni fa. Ma secondo lei c'è qualche rischio che la somma della crisi economica e di un modello di integrazione che evidentemente non ha funzionato, oppure che non c'è, molto semplicemente, conduca ad episodi di questo genere anche in Italia? Ma non si può escludere, sicuramente i tempi sono molto diversi, noi qui siamo in assistenza ancora di una presenza che è in fase di radicamento, di una seconda generazione che comunque è ancora in un'età, diciamo, non pienamente lavorativa. E quindi diciamo, però i sensi di frustrazione si percepiscono nelle musiche che emergono da molti di questi gruppi in periferia, parlo per esempio di giovani di origine latinoamericana, i figli delle badanti che vengono, sono totalmente abbandonati, che escono per strada purtroppo, e anche nel centro milanese, quindi abbiamo delle espressioni oggi di forte disagio, e è un disagio che però noi in qualche modo stiamo da una parte alimentando, perché non diamo nemmeno riferimenti identitari forti, e rispetto a quello che diceva prima, noi i ragazzi che vengono anche da storie lontane, l'Italia ha tutto l'interesse a dargli un'identità forte, ad aiutarli a sentirsi italiani da subito. Però sì, il problema del lavoro lo vedo in futuro, e vedo anche un'incapacità della società italiana a comprendere il cambiamento in atto, e quindi il rischio di un giovane italiano, tra virgolette, al 100%, che si ritrova a competere con un ragazzo figlio di immigrati e non ne comprende il perché si trovano davanti allo stesso tavolo a fare lo stesso colloquio. Quindi insomma, le discriminazioni, l'incontrario, le incomprensioni possono far nascere questo tipo di conflitti, e sicuramente in Italia stiamo facendo poco o nulla per parlarne, non dico per trovare delle soluzioni, ma il livello del dibattito politico in particolare è molto al di sotto della sfida. Allora, qualcosa che ci scrivete sulla nostra bacheca Facebook. Con la crisi economica si esaspera il razzismo e la guerra tra i poveri, ci scrive Marco Bove, una tesi caratteristicamente marxista che comunque ha una sua logica. Negarla significa che non si è capito nulla di dottrine politiche. Matteo Talluri, un po' più di pancia, scrive: il popolo italiano è sempre stato un popolo tollerante, aperto e pieno di speranza. Ci hanno tolto tutto, ci hanno fatto diventare razzisti, siamo diventati diffidenti verso tutto e tutti e non ci fidiamo più di nessuno. Due persone che raccontano la loro esperienza svedese. Matteo Marliani dice: sono stato in Svezia nel 92, ci ho vissuto per 2 mesi e mezzo e racconto un'esperienza di grande tolleranza e di pacifica convivenza, mentre invece Sofia dice: non è questione di crisi che esaspera la guerra tra poveri. Un'amica svedese di origine russa, nata in Svezia, sposata con uno svedese e 5 figli, che ovviamente non sono proprio biondi con gli occhi azzurri, e lei mi raccontava già anni fa che in Svezia c'era molto razzismo, addirittura dicevano ai figli che non erano veri svedesi. Vabbè, questi sono naturalmente racconti singoli. Tra poco sentiremo tra l'altro una collega di Francesco Speroni, che è Anna Maria Corazza Bildt, che è un europarlamentare, però nonostante il nome italiano, essendo sposata con uno svedese, un europarlamentare svedese del Partito Moderato, e quindi cercheremo di capire anche da lei se ci sono questi elementi. 9 in punto. Iniziamo con gli ascoltatori. Dunque, Dieng dalla provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prego. Allora, il problema dell'immigrazione è sempre stato spostato, cioè la politica, certe politiche per il suo torno contro elettorale. Il problema, cioè, è far rispettare le regole di una buona convivenza civile, perché ci sono troppe zone franche in Italia. Io ho paura, io ho i miei figli che crescono qua. L'altro giorno che sono stato a Brescia, nella stazione, è tutta una invasione di negozi di immigrati. Ecco, con la ghettizzazione prima o poi fa esplodere la rabbia. Io ho scritto un libro sull'immigrazione che si chiama Diamo forma all'integrazione, che è ancora in tempo. Ma la mancanza di volontà di integrazione degli immigrati, di una parte politica e poi delle associazioni che fanno vittime gli immigrati per il loro torno conto economico. E poi dico anche all'onorevole Speroni che dove ha dovuto la Lega non è che abbia fatto meglio rispetto alle altre zone. Bisogna per una volta evitare la ghettizzazione e far rispettare le regole e fare meno pregiudizi. Grazie. Io ho paura, non mi auguro, però ho paura. Grazie Dieng per il suo intervento. Saluto, già preannunciata poco fa, Anna Maria Corazza Bildt, europarlamentare del Partito Moderato Svedese. Buongiorno. Buongiorno. Romana di nascita in realtà e poi naturalizzata svedese, appunto. Quindi un'immigrata anche lei, insomma, tutto sommato in Svezia, seppure insomma abbastanza. Io sono un'europea, sono italiana che sta in Svezia, eletta dal popolo svedese. Eletta dal popolo svedese. Con le preferenze. Allora, ci dica un po', c'è qualche ascoltatore che ci sollecita e dice: guardate che insomma io ho amici in Svezia e mi dicono che il razzismo sotto traccia è forte, quindi anche questo in qualche misura può avere un impatto, no? Questi alti livelli di disoccupazione tra gli immigrati, si parla anche di una polizia un po' dura, se non razzista, appunto, con gli immigrati. Che cosa ci dice? No, guardi, i vandali ci sono dappertutto e quindi si è visto che molte di queste persone, questi giovani che purtroppo sono stati coinvolti in questi atti di vandalismo nelle periferie di Stoccolma e di altre città, avevano già avuto a che fare con la giustizia, con la droga, e purtroppo è vero che sono legati anche al, sono giovani che hanno lasciato la scuola, che hanno avuto voti bassi a scuola e che sono disoccupati, non solo immigrati. Poi purtroppo sia l'estrema destra che l'estrema sinistra hanno strumentalizzato, mettendo olio sul fuoco, e creato la polizia come capro espiatorio. In realtà la polizia faceva il suo lavoro, è una polizia che è molto vicina alla gente e che usa il dialogo e non la violenza, e quindi queste voci che girano non sono basate sulla realtà. Però mi scusi, le chiedo questo però. I numeri, no? Sui numeri non si può dire niente da questo punto di vista, non sono soggetti ad interpretazioni, ossia quelli che vedono un alto numero di disoccupati, soprattutto tra le fasce giovanili della popolazione immigrata, in particolare extraeuropea. I più alti livelli di disoccupazione appunto sempre tra gli immigrati, anche non solo giovani, insomma, no? Forse insomma, qualche segnale di una politica di integrazione che non ha funzionato in pieno lo si può leggere oppure no? Assolutamente, io mi riferivo adesso agli atti di violenza e a quello che lei mi ha detto sulla polizia. Poi la Svezia è un paese che ha uno dei tassi di crescita più alti in Europa e che non ha debito pubblico, però c'è un'alta disoccupazione giovanile e questo è un problema veramente fondamentale. Però esprimere la propria frustrazione o insoddisfazione per il fatto che non sia lavoro, che è un problema ovviamente fondamentale, in modo violento non è mai giustificabile. Invece purtroppo sia l'estrema destra che l'estrema sinistra hanno cominciato a giustificare e a trattare queste persone da vittime che hanno il diritto di esprimersi in questo modo. Invece la frustrazione non si esprime bruciando le macchine, questo è il punto che volevo dire. Poi che ci siano problemi di politiche di integrazione e che forse la più grande sfida che ha la società svedese in questo momento è integrare i giovani nel mercato del lavoro, assolutamente sì. Motivo per cui, per esempio, qui a livello di Unione Europea abbiamo approvato un pacchetto per la garanzia del lavoro giovanile che verrà approvato qui, adottato dal Consiglio a giugno. Noi lavoriamo ogni giorno, perché è un problema comune dell'Italia, della Svezia e di tutta l'Unione Europea, come integrare i giovani nel mercato del lavoro, con un mercato del lavoro più flessibile, che purtroppo non c'è né in Italia né in Svezia. E io lavoro moltissimo con i miei colleghi sull'apertura del mercato interno, perché se noi abbiamo delle regole comuni più chiare, più semplici, meno burocrazia, meno red tape, meno complicazioni per esempio reclutare un giovane e perché le società possano crescere, perché il problema è che c'è troppa burocrazia per le piccole società. Con regole comuni europee, con un mercato interno che veramente funzioni, con una libertà di circolazione non solo sulla carta ma nella realtà, le società potranno avere più possibilità di impiegare. In Svezia abbiamo un problema che le società richiedono competenza che non c'è sul mercato, è il famoso problema del matching, e allo stesso tempo c'è disoccupazione. Quindi si tratta anche di dare formazione adeguata. Abbiamo visto che molti di questi giovani avevano lasciato la scuola, allora, che erano coinvolti in questi atti di violenza, purtroppo. A chi ci scrive, chi sta fuori dall'euro sta meglio, ricordo che la Svezia non è nell'euro, no. anche se insomma, dovrebbe entrarci, non so ancora qua, quando ci deve entrare, non si sa ancora esattamente. No, chi sta fuori dall'euro sta meglio è populismo, perché non è assolutamente... la crisi che c'è adesso in Europa non è una crisi dell'euro, è una crisi dei governi, degli stati membri dell'euro che non hanno adottato le riforme strutturali e liberali necessarie a rendere l'Italia e l'Europa competitiva. Sento una cosa, abbiamo ancora in linea Khalid Chaouki, che è responsabile Nuovi Italiani per il Partito Democratico, il quale sottolineava come insomma, probabilmente anche il portare avanti delle politiche di, chiamiamole, assistenzialismo esasperato, no? Possa condurre a, se non a fatti di questo genere, comunque a una certa tensione sociale, insomma, no? Nel momento nel quale si dà troppo, per così dire, dal punto di vista in particolare di aiuti duri e puri, insomma, senza strutturare appunto una politica di integrazione, si rischia qualcosa di questo genere. È il caso svedese, perché in particolare il quartiere da quale è partita la rivolta è stato ricoperto di pubblico denaro negli ultimi anni, da quel che ho letto, no? Prima di tutto non c'è stata nessuna rivolta, ci sono stati fatti isolati, atti di vandalismo isolati, non c'è stata una rivolta, anzi ci sono state dimostrazioni pacifiche nelle strade e ci sono le notti gente normale, volontari che vanno in giro per cercare di mantenere tutto tranquillo, quindi non c'è nessuna rivolta. Condivido assolutamente con Khalid, che saluto, che la politica che i socialdemocratici hanno fatto per tanti anni in Svezia è stata focalizzata sull'assistenzialismo. Da quando noi siamo andati al governo come centrodestra nel 2006 abbiamo cercato di cambiare questa cultura del puro assistenzialismo, nell'invece dare la possibilità di entrare nel mercato del lavoro, perché il modo migliore di integrarsi è avere un lavoro e sostenerti con le tue forze. E questo è un cambiamento veramente fondamentale nel modo in cui la Svezia sta lavorando. E però ci vuole tempo a cambiare dalla cultura del puro assistenzialismo alla cultura dell'integrazione grazie al lavoro. Poi ovviamente ci sono quelli che gli malati, le persone anziane, i bambini, quelli che sono disoccupati da tantissimo tempo, che hanno bisogno anche di assistenzialismo. Però quello che il governo svedese ha fatto è ha diminuito i contributi per le imprese che impiegano giovani. Quindi se tu impresa vuoi impiegare un giovane paghi la metà dei contributi che se impieghi un non giovane. Abbiamo fatto una serie di detrazioni fiscali per incentivare le imprese a impiegare i giovani, che stanno funzionando molto bene. Voglio sentire qualche altro ascoltatore, poi torneremo da Speroni e Ciauchi. Seydou dalla provincia, a me fa sempre ridere quando devo dire provincia di Monza e Brianza, insomma, non ce ne dovrebbe essere nemmeno una e c'è anche la provincia di Monza e Brianza. Seydou dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo partecipare proprio. Prego, dica. Sì, ok, io sono immigrato senegalese da più di 10 anni in Italia. E proprio appena arrivato con una laurea ci ho provato proprio a recuperare la parità della mia laurea nel mio paese. Come sono andato alla CEPU mi ha proposto per su 16 esami dovevo riprenderne 4 e mi costava 7.000 euro. Come un immigrato che viene a fare immigrazione economica, che non ha ancora il lavoro, pagare 7.000 euro per riprendere. Lei che laurea ha? Assicurazione finanza. Assicurazione di finanza. Sì. E adesso è riuscito a farsela riconoscere oppure no? No, perché non avevo i soldi per pagare proprio i costi. Che lavoro sta facendo adesso? Gestione archivio, inserimento dati, operaio diciamo. Okay, quindi con tutta la mia buona volontà ero molto limitato. E quindi in Italia l'immigrazione non c'è una accoglienza per chi è venuto a fare immigrazione economica, ok? Gli asilanti sì, devono essere accolti, assistiti per dare questa possibilità. Però, ok, io dopo 10 anni mi sento il più africano degli italiani e il più italiano degli africani per dimostrare il mio grado di integrazione nella società italiana. Quindi se si prende proprio una accoglienza con una possibilità di studiare, l'immigrato è disposto, anche disponibile a competere a livello intellettuale con gli italiani. Però se si vediamo i giorni di oggi, l'immigrato ha un livello lavorativo proprio operaio, non è che nel sonno più dolce anche l'immigrato non sognerà mai di sedersi dietro una scrivania e fare l'impiegato, quindi malgrado il suo livello di studio. Grazie Seydou per la bella testimonianza. Direi voglio coinvolgere Speroni a questo punto, perché l'abbiamo abbandonato dopo un po' abbandonato dopo l'inizio, e però insomma era giusto anche che ne sentisse un po', no? Dall'altra parte il primo ascoltatore di Hang che ci diceva qua in questo paese c'è un problema di rispetto delle regole, dall'altra parte storie come quelle di Seydou. Sì, beh, mi sembra strano 7.000 euro per sostenere 4 esami. Vabbè, adesso non, mi scusi, non andiamo su. Abbiamo ad esempio il ministro Kenge che invece si è laureato addirittura in medicina, che è una facoltà abbastanza lunga, quindi insomma bisogna, non vorrei andare nel particolare. Invece per quanto riguarda il disagio, non penso che sia l'assistenzialismo, penso proprio sia la difficoltà o la non volontà di integrarsi. Pensiamo ad esempio che la seconda lingua più diffusa nel Regno Unito e in Inghilterra è il polacco. Ci sono più di 500.000 di immigrati polacchi, non mi risulta che ci siano rivolte o anche atti di vandalismo isolati, però uno qui, uno là, eccetera, è difficile poi dire se sono isolati o se costituiscono una rivolta o delle turbulenze, ma senza andare nel particolare, questi polacchi, che pure sono tantissimi, non hanno mai fatto il casino che hanno fatto gli immigrati africani, quindi anche la provenienza secondo me ha una sua influenza, proprio perché più si è diversi e più è difficile integrarsi. Certo, se qualcuno va in giro tutto velato, se qualcuno comincia a dire ti offro una birra, no per carità, anzi è meglio che non la bevi anche tu, perché io parlo qui della realtà belga. Nella realtà belga, ad esempio, i bambini belgi, se vanno a scuola e si portano un panino col prosciutto, vengono discriminati dagli altri bambini, parlo di bambini, non parlo di adulti, dagli altri bambini, perché magari dicono, anzi sicuramente dicono, guarda, tu il prosciutto non devi mangiarlo, eccetera, eccetera, poi tornano a casa, e questo lo si vede tranquillamente dalla stampa belga, tornano a casa e dicono, papà, ma perché mi hai dato il prosciutto che non è una buona cosa, no? Ecco, qui è veramente una questione la fermo Speroni, società delle regole che vengono da fuori. La fermo Speroni, perché poi Anna Maria Corazza Bildt ci deve salutare, allora chiedo conferma dell'episodio belga, perché è l'Europa, è il principio fondamentale dell'Europa, è unita la diversità. Lei ci vive, ci sono all'interno dell'Italia delle grosse diversità, ed è la ricchezza e la forza della nostra storia. Mi scusi, Corazza Bildt, lei ci vive no, a Strasburgo. Speroni ha detto una cosa che secondo me è molto grave e che vorrei subito ribattere, che non c'è una volontà di integrarsi e che più si è diversi più si ha difficoltà a integrarsi. Questo è contrario a tutta la storia dell'Europa e alla storia dell'Italia, perché la diversità è una ricchezza e una forza, però va gestita con delle regole chiare e in maniera umana. Quindi questo fatto che adesso l'estrema destra, la Lega e purtroppo i razzisti hanno cominciato a dare la colpa agli immigrati, a quelli che sono diversi, per tutti i mali dell'Italia o dell'Europa, è una cosa gravissima che non è riflettuta nella realtà. Perché, per esempio, in Svezia ci sono tantissimi immigrati che hanno creato società che producono ricchezza, che impiegano svedesi, e così in Italia. Quindi non si può assolutamente stigmatizzare in questo modo il diverso all'immigrato, è una cosa gravissima che è contro i nostri valori. Ma sta storia dei panini? Ma scusi, ma c'è chi gli piace questo è un rispetto della religione. Ma voglio dire, allora, che la religione cattolica si mangia il pesce il venerdì è una cosa sbagliata? Chi si vuole mangiare il pesce venerdì? Perché il cattolico si mangia il pesce venerdì. Se loro non vogliono mangiare il panino col prosciutto perché è carne di maiale, non se lo mangino. Cioè, il rispetto della religione, qualsiasi religione sia, non è che si può identificare con un problema degli immigrati. Ognuno si mangia quello che gli pare. 9 in punto. Allora, ciao, chi ha sentito un po' di riflessioni di Anna Maria Corazza Bildt, ha sentito quello che dice Speroni, ha sentito anche i nostri ascoltatori, insomma abbiamo parecchi ascoltatori tra immigrati, abbiamo avuto modo di verificarlo soprattutto quando facciamo puntate che si occupano di esteri, perché insomma quando ci siamo occupati di Siria hanno chiamato tantissimi siriani, altrettanto quando ci siamo occupati di Egitto, di Tunisia e via dicendo. Allora, cosa ci dice? Ma vabbè, sul prosciutto non commento, tra l'altro io sono di origine musulmana e non ho mai avuto problemi con chi mangiava il panino col prosciutto o altro, insomma penso che il livello sia un altro del nostro dibattito. Il grande tema del prosciutto, mi accusano su Twitter, dicono ti stai zanzarizzando, no? Io insomma, sono cresciuto a Parma, tra l'altro, che è terra del prosciutto, quindi non è questo il problema. Il problema vero è però che voglio dire anche in questa mattinata è che noi dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, e la realtà che non ci hanno mai voluto raccontare o che qualcuno ci ha speculato, in particolare in Italia la Lega Nord e parte della destra, non diciamo raccontando una paura e non raccontando una realtà in atto in cui contano i numeri, cioè qui il contributo dell'immigrazione alla nostra società, al di là che io sia del PD o meno, è un contributo che non si può negare, sia dal punto di vista economico, pagamento del PIL, le pensioni, l'equilibrio appunto delle casse dell'INPS e soprattutto il welfare, pensiamo alle badanti, pensiamo al mondo della scuola, quanti. E quindi è un contributo che c'è, di cui abbiamo bisogno, la demografia, la natalità, eccetera. Il fatto è dire però come vogliamo gestire questa immigrazione, quale politica di integrazione mettere in atto. Noi finché continuiamo a fare demagogia, appunto, a dire che chi è diverso per forza non si integrerà, non vuole integrarsi, quando invece è risaputo che l'Italia non offre percorsi di integrazione, abbiamo un paese dove non funziona la giustizia, non funziona la sicurezza per tutti. È chiaro che se c'è una componente nuova che sicuramente porta con sé alcune criticità, che ha bisogno di un percorso di ingresso regolare, è chiaro che poi fa emergere quelle che sono delle falle del sistema Italia in generale. Quindi il problema della sicurezza riguarda tutti, con la presenza di diciamo una fetta nuova di popolazione, è chiaro che questo viene ancora più a galla. Però il fatto che in altri paesi bene o male si è trovato un modello e oggi possono permettersi il lusso di metterlo in discussione, noi critichiamo gli altri ma non abbiamo nemmeno riconosciuto ancora oggi che l'Italia di fatto è un paese di immigrazione, che gli immigrati non sono tutti là dei criminali, ma che oltre 4 milioni lavorano e pagano l'11% del PIL. Una volta che decideremo insieme, destra e sinistra, PD, PDL, Lega, eccetera, che l'Italia è un paese ormai multiculturale, allora potremmo seriamente metterci a discutere su quale modello di integrazione mettere in atto. E lì bisogna ragionare anche studiando i casi europei e cercando di cogliere il meglio. Allora, io so che Speroni voleva parlare per replicare ad Anna Maria Corazza Bildt, però purtroppo insomma se n'è andata, però l'ascoltiamo volentieri. Senta, dove posso mandarle un'email? Sul panino, sulla storia del panino? Sì. Gliela dico, non è che la dico. Guardi, se vuole la mandi a 9 in punto e radio24.it, così l'hanno pure gli ascoltatori, e poi se vuole in privato le do la mia mail personale. Ce l'ho qui davanti, l'articolo di Lesuara del 14 maggio di quest'anno. Ne me più de jambon da metatin, ma manca di bon crescere del bambino che racconta che addirittura se lui porta il panino se lui porta un panino col prosciutto a scuola, all'asilo, a 6 anni insomma, a scuola di infanzia eccetera, i musulmani gli sputano dentro, ecco, quindi siamo a questo livello. Poi per carità saranno episodi isolati, ma dimostrano la difficoltà di integrazione di certe culture rispetto alla nostra. Ripeto, il 500.000 di polacchi nel Regno Unito e tanti italiani che sono venuti qui in Belgio a lavorare in miniera non hanno mai creato i problemi che creano invece persone provenienti da altre realtà. Io dico solo questo, mia è una constatazione, ripeto, è un dato di fatto, non è un'ideologia, non voglio essere razzista, dico è così, come se dico che oggi qui a Bruxelles il tempo è nuvoloso. Non sarà colpa di nessuno, però uno non può dirmi che a Bruxelles c'è il sole se ci sono le nuvole. Quindi se a un certo punto in Svezia sono stati gli immigrati provenienti da certi paesi a bruciare le macchine eccetera e non da altri, perché ci sono anche immigrati russi, immigrati polacchi eccetera, però le macchine non le bruciano, il problema è la differenza tra persone che vengono da certi paesi e la società in cui per qualunque motivo si trovano a vivere. E quindi cosa fai? Ne facciamo entrare solo alcuni e non altri, cioè provenienti da alcuni paesi e non da altri, secondo lei? È quello che diceva il cardinale Bifi nel 2000, condiviso, se andiamo a vedere il Corriere della Sera di quegli anni, condivisi da Angelo Panebianco, da Giovanni Sartori, che naturalmente non mi pare abbiano in tasca la tessera della Lega. E se io non posso dire, non faccio venire quello perché è di un certo colore della pelle e di una certa religione, quella è discriminazione, posso benissimo dire che quelli da certi paesi possono venire e quelli da altri no, perché ad esempio anche la politica dei visti varia da paese a paese, ci sono Il concetto è chiaro, la interrompo perché abbiamo ancora un minuto e voglio far replicare Ciocchi. Ma questa lettura, tra l'altro, che risale ad Huntington, Fallaci, di fatto è stata fallimentare, perché dal 2001 ad oggi non sono successe le cose che dice Speroni. In Italia abbiamo 1,5 milioni di musulmani e non hanno fatto né bombe né attentati, né eccetera. Quindi è una lettura falsa. E secondo la sua lettura, gli italiani non sarebbero dovuti essere accolti in America, perché venivano considerati tutti pericolosi, mafiosi, venivano sottoposti a test appunto indegni per la civiltà umana. Quindi io non accetto assolutamente questa lettura, che invece non esito a chiamare razzista, etnica, quello che volete, perché l'integrazione in alcuni paesi dimostra che oggi abbiamo presidenti di partiti, parlo della Germania, il Partito Verde, che ha un turco al suo capo, che sono persone pienamente inserite nella cultura democratica di quei paesi. Grazie, la devo interrompere perché siamo veramente in chiusura. Un ringraziamento a Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. Se volete mi trovate su Twitter, Simone Spezia, c'è la nostra pagina Facebook, oppure scrivete 9in.radio24.it. ci sentiamo domani dal Festival dell'Economia di Trento. Ricordati! Mancano 33 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.